Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. È la più grande superbobina magnetica costruita in Europa, la prima delle 18 previste dal progetto ITER a raggiungere Cardache in Francia, ed è stata costruita in Italia, che si conferma ancora una volta una vera potenza mondiale nel campo dei superconduttori. Buonasera, buonasera e benvenuti a Smart City. ITER, come molti ascoltatori sanno, è un reattore sperimentale a fusione nucleare il cui obiettivo è dimostrare per la prima volta la fattibilità scientifica e tecnologica di riprodurre sulla Terra la reazione che alimenta il Sole, che alimenta le stelle, per ottenere, come sappiamo, energia sicura, illimitata e anche ambientalmente compatibile. Parliamo di un esperimento internazionale da 20 miliardi di euro che vede collaborare Europa, Giappone, Stati Uniti, Russia, Cina, India e Corea del Sud, ed è sarà anzi il più grande impianto sperimentale a fusione del mondo. Una volta completato avrà il compito di produrre con la fusione 500 megawatt termici per circa 1000 secondi. Le grandi bobine superconduttrici sono il cuore tecnologico di ITER, avendo il compito di mantenere confinato, grazie a potentissimi campi magnetici, un plasma, ovvero un gas ionizzato, alla temperatura di, pensate, 150 milioni di gradi, temperatura minima alla quale è possibile innescare le reazioni di fusione nucleare sulla Terra, e quindi senza le enormi pressioni che si riscontrano invece nel nucleo delle stelle, che a confronto sembra un oggetto tiepido. Insomma, poco a poco ITER sta prendendo forma e la consegna della prima bobina è per questo un passaggio molto importante. Ne parliamo con Antonio Della Corte, presidente del consorzio ICAS che ha realizzato la bobina e responsabile Enea della sezione superconduttività. Buonasera Della Corte. Buonasera, per precisione noi abbiamo realizzato i cavi superconduttori che sono serviti ad avvolgere questo magnete di 17 metri di altezza e 9 metri di larghezza. Parte dell'altro lavoro è stato fatto dalla SG Superconductor e dalla Simic, sempre ditte italiane. Quindi questo è un magnete completamente costruito in Italia, molto avanzato tecnologicamente. Pensate che questo magnete funziona a una temperatura di meno 270 gradi centigradi circa, ed è affacciato a un plasma, come diceva, di 150 milioni di gradi. Quindi capite la sfida tecnologica che ha, deve affrontare un magnete come questo dal punto di vista dei materiali e degli stress termici che deve subire. Questo è un orgoglio italiano. Dicevamo 17 metri di magnete, una forma di, a forma di D, è corretto? È una specie di grande D. Sì, a forma di D, quindi alto 17 metri, largo 9, come dicevo, del peso di 370 tonnellate. Contiene all'incirca al suo interno 5 km di cavi, che con un diametro di circa 40 mm, rivestiti di acciaio, al cui interno di questo cavo da 40 mm ci sono circa 1300 fili superconduttivi, che sono quelli che servono a trasportare la corrente, che è di 68.000 ampere e che crea un campo magnetico che è 250.000 volte l'intensità del campo magnetico terrestre. Quindi pensate all'intensità di questo campo e agli sforzi a cui è sottoposto un magnete in queste condizioni. Ecco, quindi stiamo parlando veramente di altissima tecnologia. Tra l'altro anche il solo trasporto di un oggetto come questo è stata una sfida. Io ho visto una fotografia dove c'era questa specie di piattaforma trainata da un camion, credo che avesse 18 assi. 342 ruote, quindi un track che è stato costruito apposta per trasportare questo oggetto. La totalità del trasporto era di 600 tonnellate, credo che sia uno dei trasporti più grossi che sia mai stato fatto. Ecco, naturalmente tra dimensione e peso è molto complicato effettuare questi trasporti. C'è da dire che in questo periodo avrete incontrato poco traffico, non so se... sì, certo, non è come un aereo che decolla da un aeroporto, quindi ha dovuto camminare su strade strette in Francia, in questa zona della Francia dove le vie poi tra l'altro sono state allargate proprio per consentire il passaggio di questo trasporto, perché sennò in condizioni normali non si poteva eseguire. Allora, veniamo al consorzio, al ruolo più in generale dell'Italia nel progetto ITER, che comunque è un ruolo di primissimo piano. Sì, assolutamente, perché io lavoro all'Enea, che è un ente di ricerca italiano governativo, Nel 2010 l'Enea ha creato un consorzio con due industrie, la Cryotech Impianti di Chivasso e la Kratos Cavi di Piede Santo Stefano, per costruire appunto i cavi superconduttori, che erano una tecnologia Enea e che quindi è stata trasferita all'industria per fare un processo industriale che ha consentito di produrre in circa 5 anni una 50 di chilometri di cavi, con un'entrata economica di circa 50-60 milioni di euro. Quindi una cosa molto, molto importante sia dal punto di vista tecnologico, perché un trasferimento da un ente di ricerca a un'industria è un passo sempre molto difficile, che non sempre finisce bene positivamente. Poi c'è più complessivamente un ruolo dell'Italia con le sue industrie. Noi siamo veramente una potenza mondiale in questo campo, quello della superconduttività, e speriamo di restarlo, ecco, perché abbiamo questo strano vizio di diventare bravi a fare qualcosa e poi di cedere, regalare. Ecco. Però diciamo che in questo settore, scusi se la interrompo, in questo settore ancora riusciamo a dire la nostra, anche se c'è la concorrenza degli altri paesi come la Cina, eccetera. Noi siamo sempre quelli più elastici e più veloci a seguire i cambiamenti, e quindi in questo settore ogni volta che c'è un prototipo nuovo da fare siamo i primi ad intervenire, e da tutte le parti del mondo vengono prima da noi che da ogni altra parte. Ecco, tanto è vero, questo ruolo ce l'abbiamo. Quant'è per la costruzione di ITER, quant'è complessivamente l'ammontare delle commesse e quante ce ne siamo aggiudicate in Italia? L'ammontare delle commesse che ci siamo aggiudicate è di più di 1 miliardo di euro ed è circa il 50% di tutte le commesse europee. Quindi direi che l'Italia si è piazzata molto molto bene. Va bene, allora grazie Antonio Della Corte e avanti così. Buonasera, grazie a voi. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, a risentirci domani sera.